No, la cosa che sorprende tutti gli anni è che c'è gente che fa letteralmente a botte per prenotarsi la serata qua. Mentre venivamo in macchina, Fabrizio ha ricevuto un paio di telefonate di gente che lo supplicava di entrare. Allora, i biglietti per Jan Manouk si sono esauriti in 40 minuti. Questo vi dà l'idea di quanto il festival sia atteso a Massagno. E io vorrei che faceste un applauso per uno degli scrittori francesi più innovativi e più originali degli ultimi anni, che è Jan Manouk. Allora, come vedete, non abbiamo un traduttore o una traduttrice, perché lui parla un italiano molto singolare, molto particolare. Un po' caotico. Vi divertirà, nel senso che scoprirete che lui parla un po' italiano, un po' francese, un po' spagnolo, cioè un gramelò singolare. E questa sera parleremo di un luogo esotico particolare nel quale lui ha ambientato la saga del suo Yeruldegel, che è la Mongolia, un posto che nessuno aveva mai raccontato in un genere come il poliziesco. Allora, la prima domanda che faccio a Jan Manouk è: anzitutto spiegaci il tuo pseudonimo, perché lui in realtà si chiama Patrick Manoukian, non si chiama Jan Manouk, ma è un nome d'arte che lui si è scelto. Uno, perché l'hai scelto e come l'hai costruito? Allora, la storia comincia con una sfida con la mia figlia. Io ho scritto da quasi 50 anni che scrivo, però senza terminare niente, e durante 50 anni. E 5 anni fa, un po' più di 5 anni fa, io scrivevo durante il giorno, perché non posso scrivere al calmo, devo scrivere a dove c'è il rumore, c'è al mio posto di lavoro, nel caffè. E ogni sera io portavo a casa quello che avevo scritto nel giorno. E costringevi tua figlia a leggere? Sì, lo facevo leggere alla mia figlia. E, però cioè, il lunedì sono 3 pagine di storia di amore, il martedì 5 pagine di una storia di detective, di anticipazione. E, quando la nostra figlia installarsi in Argentina, a Buenos Aires, io l'ho chiesto se vorrei che lo mandasse quello che scrivo con il PDF. E lei si è arrabbiata perché da 5 anni non sapeva niente delle storie, che non aveva un film, non aveva il destino dei personaggi. Mi ha detto: no, basta così, io non leggo più niente fino a che tu finisse qualcosa. E allora l'ho detto come un papà può fare il tipo di sfida stupida con la sua figlia. Io l'ho detto: ok, allora facciamo una cosa, io voglio scrivere due libri all'anno ed è un genere differente ogni volta e con un pseudonimo differente. E abbiamo fatto una lista, la lista era saggio, romanzo giovanile, romanzo letterario, giallo, saga storica e romanzo, si dice in francese, di società. Romanzo sociale. Arrivo che il primo anno ho scritto i due primi libri e è andato bene. Il saggio è già stato ristampato 3 volte e il romanzo giovanile ha avuto il premio del migliore romanzo giovanile 2012. Allora l'ho fatto i due altri. E come l'avevo detto nella sfida, ho preso ogni volta un pseudonimo. E, ieri è uscito in Francia una nuova trilogia, il primo tomo di una nuova trilogia con un nuovo pseudonimo. Da ieri mi chiamo anche Roy Brevaman. E ovviamente ogni pseudonimo è un mondo diverso, perché questo nuovo pseudonimo è negli Stati Uniti, mentre invece Jan Manouk scrive storie che sono ambientate in Mongolia. E io solo ieri sera ho scoperto perché è Manouk. Allora, lui si chiama Manoukian, no? E ha posposto solamente il finale del nome, che è Jan, e l'ha messo prima, no? Perché poi fin da bambino in realtà non aveva capito questo. No, mi sono sentito stupido, cioè nel senso che veramente è come i cruciverbi, delle volte se non c'hai la spiegazione non ci arrivi. E in realtà il tuo è un nome che arriva da una tradizione particolare, tu sei di origine armena. Sì, c'è una storia con questo Jan Manouk, perché normalmente mi aveva detto che tutti i miei pseudonimi devono dire qualcosa fonetica, fonite, fonite, chiccamente, in portoghese, in brasiliano. Il primo era polegar, che significa fare il stop in portoghese. Il secondo era jacaré, che è il nome del coccodrillo. Solo che per la Mongolia c'era solamente jacaranda, che è un tipo di legno in Brasile. Però jacaranda era un po' troppo ispanico per un libro sulla Mongolia. È per questo che ho scelto Manuk, perché il mio papà, anche io, tutta la nostra vita siamo chiamati di Manuk, che quando con un nome di straniero così, tutti in scuola, nella fabbrica, nella facoltà, ti chiamiamo di Manuk. Però mi ha preso un tempo grande per trovare il prenom. E anche io ho trovato solamente, dopo molto tempo, la tecnica di mettere Jan in primo. Senti, ma quanto tempo ci sei stato in Mongolia e perché ci sei andato? Noi abbiamo viaggiato 5 settimane nel 2008 e siamo andati di qua perché la nostra figlia più giovane, la stessa, che si chiama Zoe, perché parliamo della... è padrina, si dice padrina, di un bambino da quasi 15 anni che paga sul suo... il suo sostentamento. Sì, sì, sì. E allora ci siamo interessati alla Mongolia da 15 anni. Lei ha visto un reportage in televisione che parlava della gestione di alcune associazioni caritative che non era così regolare. Allora mi ha detto... potremmo andare di là per verificare se i soldi che io mando ogni mese sono ben usati. Quindi si arrivano veramente al bambino. Allora siamo andati per questo, siamo andati per incontrare il bambino, il ragazzo, e per approfittare anche per viaggiare. Ma che immagine ti eri fatto della Mongolia? Come ti aspettavi che sarebbe stata la tua visione del territorio? È sempre più grande e più bello che quello che puoi aspettare. Sono dei paesaggi incredibili. Io ho viaggiato molto, dei paesaggi come questo tipo di paese, con l'ambiente minerale, diciamo. Abbiamo visto la Patagonia, abbiamo visto l'Alaska, l'Islandia. La Mongolia è la più grande. Ci sono dei paesaggi immensi che non si può neanche immaginare. E dopo c'è qualcosa di più che mi serve, che nel giallo è questa cultura sciamanica, che si sente dappertutto, si sente anche nel paesaggio, c'è qualcosa di sciamanico. Tenete presente che i mongoli sono non solo una cultura legata allo sciamanesimo, ma sono nomadi. E lui nei suoi romanzi racconta come questa cultura negli ultimi anni in qualche modo è dovuta arrivare in conflitto con la modernità. Tanto che è vero che esistono ancora alcune tradizioni sciamaniche e hanno in parte ancora alcune tradizioni nomadi, ma in realtà sono costretti tutti a vivere in un'unica grande città, che è Ulaanbaatar. Allora, ci spieghi perché adesso tutti i nomadi, invece che poter andare in giro con le tende, con le yurte, che sono le loro tende tipiche, sono stati costretti a andare a vivere in un unico luogo che è in realtà una città sporca, piena di criminalità, dove è difficile vivere in comunità? Allora, la città di Ulaanbaatar non è così, così brutta che io ho conosciuto per il giallo. Un po' troppo di cose male. Non è così, non è cosa di criminale. È davvero è una città brutta, che non è questo tipo di città che ti piace quando arriva. Si serve alcuni giorni per entrare nello spirito di questa città. Quello che è vero è che c'è intorno di Ulaanbaatar oggi sono 600.000 persone che sono poveri, poverissime, e che vengono della steppa. Perché? Perché quello che vivono nella steppa dipendono per tutto per viaggiare, per il trasporto, per mangiare, per bere, per vestirsi, degli animali. Più o meno ogni famiglia ha un gruppo di 50-60 animali. E quando perdono questi animali, perdono tutto. Non c'è, nella steppa non c'è un piano B. E da quasi 20 anni già hanno quello che si chiama un ZUD. Un ZUD è un, come si dice in italiano, un malheur. Sì, è una malattia. Un malheur. E ci sono delle ZUD bianco. Un ZUD bianco è un inverno con meno 40 durante tre mesi. E il ZUD nero è un'estate con più 40 durante tre mesi. E da 20 anni hanno le due ZUD insieme. E questo uscire tutti gli animali. Hanno perso nel primo ZUD milioni di animali. E tutte queste famiglie che non hanno più gli animali devono cercare a sopravvivere e vanno a un allevatore. Ci sono altre ragioni anche, che Ulaanbaatar è la capitale di un paese emergente e dipende molto dalle sovvenzioni delle organizzazioni internazionali come la FMI, l'UNESCO, l'UNICEF, l'Europa, e queste sovvenzioni sono proporzionali alla popolazione. Allora lo interessa molto Ulaanbaatar recuperare tutti questi poveri nomadi, perché gonfia il numero degli abitanti e così si prendono più sovvenzioni delle organizzazioni internazionali. E chiaramente i soldi che vengono non vanno a questi poveri, vanno al sviluppamento di questa capitale emergente. Senti, ci spieghi perché le grandi nazioni guardano la Mongolia come una risorsa particolare e la sfruttano, cioè la sfruttano dal punto di vista minerario, ma hanno anche altri intenti. Per esempio, è uno dei luoghi dove si sta pensando di depositare la più grande quantità di immondizia, sia normale che radioattiva, del mondo. Questa è un'idea ricca e francese. Sì. La Mongolia è molto ricca in minerali, e questa è la prima cosa. Quando la Mongolia è stata sovietica, devi pensare che la Mongolia è il secondo paese a diventare sovietico. Non sono i russi, che i sovietici, che sono andati in Mongolia. Hanno scelto loro, subito dopo la Russia, di diventare sovietici. E hanno avuto un sistema sovietico da tre generazioni molto molto duro, che hanno ucciso il 97% dei moine, e distrutto tutti i monasteri. E per prendere l'uranium della Mongolia hanno creato una città dentro della Mongolia, una città russa, interdita ai mongoli, di 50.000 persone. Questa sono la seconda città di Mongolia. Allora l'uranium, le terre, come si dice in Italia, le terre rare? Sì, le terre rare. L'oro e tutto. Oggi il 95% delle tre province del sud sono delle concessioni alle imprese internazionali come il Canada e l'Australia. E questa idea di mettere porcheria radioattiva, hanno fatto nel sud della Mongolia la miniera enorme. Una delle più grandi, la più grande per l'oro e il cuivre e il rame nel mondo. Da una profondità di oggi di un chilometro, quando sarà finita di un chilometro e mezzo. Però questa miniera servirà solamente durante 40 anni. Esiste già da 10 anni, ancora 30 anni. E dopo non ci sarà più la materia prima. E allora ci sarà un buco gigante nel sud della Mongolia. E non si sapeva cosa fare. Come noi, i francesi, siamo arrivati un po' troppo tardi per pigliare tutta la materia ricca, che non potevamo prendere il minero. Allora abbiamo avuto questa idea di comprare il buco, comprare in anticipo all'Australia e al Canada il buco di questa miniera, così ci sarà un buco gigante per il Giappone e la Corea, ensevelire, che si potrà riempire. Tutti le déchets radioactivi, tutto quello che è radioattivo. E questo è il povero destino di questo paese, che lui non decide di nada, perché di niente. Perché sono passato da 3 generazioni di un sistema sovietico a un sistema ultraliberale, un capitalismo che qui non conosciamo, è un capitalismo cinese, terribile, senza regole, terribile. E quando sono passato di queste 3 generazioni di sovietismo al tipo liberale, claro che sono diventato una democrazia parlamentaria, però senza il personale politico per esserlo. E il personale politico era lo stesso del periodo sovietico. Allora questi sovietici che hanno visto questo paese diventare una ricchezza, e che durante 10 o 20 anni non aveva niente, eravamo pagato un pochissimo, sono diventato le persone a decidere chi può installarsi in Mongolia o no, e per questo è diventato, se finisce oggi, perché sono già più di 20 anni, 20, quasi, 20, quasi 30 anni, finisce oggi, perché sono diventato il personale politico il più corrutto del mondo, perché c'erano così poveri, e dopo sono diventato così alla comanda di un paese così ricco. Anche perché hanno una merce di scambio che non è solo quella mineraria. La Cina, mi raccontavi ieri sera, ha un bisogno d'acqua totale, no? Perché non ha abbastanza acqua per sopravvivere. E quindi cosa ha deciso? Di comprare l'acqua direttamente dalla Mongolia, facendola trasportare in una maniera abbastanza... No, non è esattamente questo, è un po' più complicato. Cioè che le mineral del sud della Mongolia hanno già usato tutta l'acqua superficiale solamente per le minerali. Le miniere consumano più di acqua... Consumano più acqua. Che gli umani e gli animali della regione. Allora hanno già cominciato da cercare l'acqua dentro del suolo, che già la nappe freatica già è rovinata. E allora hanno bisogno d'acqua. Nello stesso momento in Cina hanno bisogno di acqua nel nord della Cina, perché il deserto del Gobi si muove di 8 metri all'anno da cerca pavere. Normalmente dentro dei 20 anni dovrebbe essere Pechino sotto la sabbia del Gobi. Allora i cinesi cercano da controllare questo. Hanno immaginato due cose. La prima cosa, veramente cinese, di smontare Pechino per installarlo più al sud. Era un vero progetto, no? E il secondo progetto era di prendere i grandi fiumi del sud della Cina per portare l'acqua al nord. E l'hanno fatto, hanno fatto delle cose terribili, dei lavori faraonico, come si dice, non so se si dice in italiano, faraonico. E oggi lo portano l'acqua al nord. Allora, come portano l'acqua al nord per salvare questa parte di Cina? Vedono d'un occhio bene che i mongoli portano l'acqua dal nord verso il sud, così le due acque si raggiungono per salvare questa regione. Il problema è che perché la Mongolia prende l'acqua al nord per portarla al sud, hai che prendere l'acqua dei fiumi che vanno anche in Russia. In Siberia. In Siberia, sui grandi laghi di Siberia. E questo i russi non li vengono bene. E allora siamo già, senza saperlo, a uno dei progetti, non progetti, ma di possibilità di un conflitto regionale molto importante, perché voi sapete che i prossimi conflitti regionali saranno per l'acqua, dappertutto. Già comincia in Sud America, una parentesi. E il suo libro Mato Grosso racconta questo. In Sud America... il Brasile ha scoperto un problema che si chiama la pirateria idraulica. Pirateria per l'acqua. Sì. Ci sono dei navi grandi, barchi grandi, di trasporto di petrolio, che andavano fino a Manaus e che dopo partavano di nuovo per l'Europa. E quando arrivavano al fin dell'Amazonia, era così caricato come se pieno di petrolio. Il Brasile si è reso conto che questo trasporto di petrolio, quando tornava, si riempisce di acqua dell'Amazonia, perché fino alla Norvegia, perché i norvegesi hanno capito che è meno caro disinfettare l'acqua che ha viaggiato nel petrolio dei barchi che cerca l'acqua in loro paese. E da quasi 5-6 anni il Brasile cerca di convincere tutti i paesi del mondo di dire che l'acqua di immaginare un statuto chiaro dell'acqua, a chi è l'acqua, al paese dove c'è la sorsa, o ai paesi che sono attraversati, al paese del fine, o a tutto il mondo. Però ci sono delle persone come il patron di Nestlé o il patron di Coca-Cola che dicono che l'acqua non è un bene pubblico che possa essere comprato. Ci sono dei posti in America del Sud, in Ecuador, sono dei pueblo che avevano tre sorsi di acqua. È arrivato Coca-Cola per comprare le risorse e oggi questi pueblo non hanno più acqua e che devono comprare l'acqua in bottiglia di plastico alla Coca-Cola. Il problema dell'acqua sarà terribile. E allora era questo problema di acqua con l'altro. E la triste storia della Mongolia, di essere qui entro la Russia e la Cina. Sono 3 milioni e mezzo di abitanti. Al nord c'è la Russia, al sud c'è la Cina. A questo punto, che l'ho detto ieri sera, che ogni due anni un deputato di Mongolia che vuole fare votare una legge per non avere più le forze armate di Mongolia, perché l'arma di Mongolia si entra in guerra e entra in guerra contro la Russia o la Cina. È un problema di quarto d'ora. No? Allora, basta, si può economizzare al minimo su questo. Allora, voi avete capito che con tutta questa serie di situazioni di emergenza, la Mongolia è un luogo fantastico da raccontare all'interno di una storia poliziesca, perché lui da una parte racconta la tradizione del passato che in parte cerca di sopravvivere in quel territorio, dall'altra racconta come si è sviluppata una nuova criminalità internazionale in quei luoghi. Allora, questa sera Quadranti non vi ha spiegato perché realmente andiamo nella scuola a mangiare dopo per il rinfresco, in realtà perché dovevate fare un'esperienza nomade, cioè camminare, e vi hanno costruito una yurta dall'altra parte dove ognuno di voi avrà il posto per se stesso, per gli ospiti, per la moglie, per la nonna, ci saranno anche dei simboli esterni sciamanici che vi diranno come comportarvi, ma soprattutto vi serviremo un menù particolare, non so se ve l'hanno detto, ma ci sono le marmotte cucinate, come lui racconta nei libri, e soprattutto ci saranno questi ravioli particolari che vengono cotti nel tè salato. In più ci sarà questo tè con dentro il burro salato, che è una delle caratteristiche dei suoi romanzi. Allora, battute a parte, stasera non mangerete neanche la tartare che fanno i mongoli, quindi nemmeno quella, ma quando noi leggiamo i tuoi libri c'è anche una componente alimentare molto divertente. Allora, tu sei l'unico che ha mangiato quello che racconti nei tuoi libri. Quanto è importante per quel paese nutrirsi di quei cibi, che sono dei cibi anche molto particolari, che servono a sopravvivere al caldo e sopravvivere al freddo? E che gusto si prova per noi che siamo europei ad assaggiare queste specialità che ci sembrano quasi impossibili da testare? Allora, sì, ci sono alcune risposte possibili. La prima è che è sempre più difficile, quando si legge queste cose, che provarle, che assaggiarle. Per esempio, il tè salato non è con 10 grammi di sale. Noi in Francia facciamo il caramel al burro salato, è buonissimo. E il tè c'è così poco di sale. Anche il burro è poco. Il nomadismo, normalmente qui abbiamo una vista un po' di carta postale del nomadismo, che sono persone tranquille che vanno, è un paesaggio magnifico. No, il nomadismo è una tecnica di sopravvivenza e un ambiente ostile. Se non c'è l'ambiente ostile, non ci sono nomadi. Nomadi. Ci sono nomadi nelle selve, nei deserti. E allora le tradizioni, anche le tradizioni culinarie, servono alla sopravvivenza del gruppo. Perché si mette burro e sal nel tè? Perché il corpo ha bisogno di sal, di minerale, e ha bisogno di grasso per sopravvivere all'estate e all'inverno, e anche al modo di comportarsi. Perché loro fanno 3-4 ore di cavallo ogni giorno, trasportano tutto a mano. È solo questo. E il gusto, dopo il gusto, io ho la mia posizione di viaggiatore, è che il gusto dipende del momento in quale tu lo assaggi. Quando tu mangi qualcosa che ti pare, che ti sembra, che ti parece terribile, però sì, lo comparti? Sì, lo condividi. Sì, lo condividi con una persona eccezionale e un ambiente eccezionale, questo cibo diventa qualcosa di eccezionale, anche se è feo, se è terribile. Cioè, ammettilo che il latte di cavalla non è così. Il latte di cavallo fermentato io l'ho bevuto ogni giorno con piacere, perché era l'unico modo di connettarmi con delle persone che non parlava la mia lingua e io non parlavo la loro lingua. Sì, tu vuoi capire queste persone, le persone che incontra viaggiando, tu devi fare questo gesto, perché è un ringraziamento per loro. E anche è il modo di capire il loro modo di vivere. E ancora una volta, tutto diventa buono quando lo comparti con delle persone buone. Anche io mangio peggio che in Mongolia, quando mi sono rimasto un po' più di un anno, 13 mesi in Amazzonia, ho mangiato delle cose che tu non vuoi sapere. Senti, quando i lettori italiani hanno visto per la prima volta pubblicato Jeroen Degger da Fazi, hanno notato subito in copertina un'immagine che rimandava a Gengis Khan. Perché è una scultura, quella che vedete in copertina, che rimanda a Gengis Khan. Quanto Gengis Khan ha cambiato la società mongola e quanto è stato il momento in cui lui ha operato un momento sintomatico per la loro identità? Gengis Khan è l'unica referenza storica della Mongolia. Si fa l'encefalogramma della storia della Mongolia a Gengis Khan, quasi 1000 anni, e oggi delle piccole cose. È l'unica referenza storica. E è una referenza storica molto difficile da difendere, perché Gengis Khan è l'orgoglio della Mongolia, però allo stesso tempo è stato l'esterminatore più efficace della tutta la storia dell'umanità. Hanno calcolato che la conquista di Gengis Khan, la sua conquista propria, ha fatto 4 milioni di morti, e la conquista della sua famiglia, diciamo, delle suivants, quelli che sono seguiti dopo la dinastia. La dinastia durante un secolo hanno fatto 40 milioni di morti. 40 milioni di morti è una periodo quando la popolazione totale del mondo è di 400 milioni. Questo vuol dire che questo uomo, con i suoi, ha ucciso 10% della popolazione mondiale. Oggi sarebbe un massacro di 700 milioni di persone. Con molta precauzione, perché le comparazioni tra questo tipo di storia è molto difficile, però 700 milioni di persone, di morti in 100 anni, è una Shoah cada anno durante un secolo. È questo la Gengis Khan. Alcuni scientifici, penso che dell'Inghilterra o Canada, hanno calcolato che è l'unica periodo nella storia umana quando il CO2, il carbone, ha diminuito, perché meno del 10% della popolazione, quando tutto si faceva col fuoco, è meno carbone. È l'unica periodo. Non so come arrivano a fare questo tipo di analisi, però è un'immagine per capire che Gengis Khan fu è una referenza storica unica e terribile da supportare. E al stesso momento, con il vicino della Cina, esplica molte cose con la relazione con la Cina, perché questo piccolo paese di oggi, 3 milioni e mezzo di persone, è l'unica cultura, l'unica civilizzazione che ha distrutto la Cina completamente. E per lottare contro i mongoli, che la Cina ha fatto con la muraglia di Xin, è l'unica civilizzazione che ha distrutto Pechino, che ha installato una dinastia propria in Cina. E oggi non sono più niente. Allora, poi la cosa incredibile è che quando hanno attuato questa politica di espansione hanno distrutto tutto, non hanno costruito niente, perché essendo una comunità nomade, la loro intenzione era di eliminare tutto quello che c'era, non era di lasciare monumenti, statue, costruire acquedotti, eccetera. Cioè, loro andavano e bruciavano tutto. Sì, ancora una volta è un po' più difficile, perché chiaramente loro hanno distrutto tutto, le più belle biblioteche di Perse, in India, anche in Europa, perché sono arrivati quasi cerca a Budapest. E non hanno costruito niente. L'odi dopo hanno costruito qualcosa, però lui, Gengis Khan, con il ciclo di conquista di Gengis Khan, niente. Però al stesso momento è stato uno dei primi imperi con delle leggi transnazionali. Aveva un registro di leggi che si applicavano in tutti i paesi. Un tipo di legge essenziale per regolare le relazioni fra le persone, tra i gruppi. E ancora una volta è una referenza storica molto difficile per la Mongolia. Però non posso fare altrimenti che usarla, perché è l'unica. Allora si vede dappertutto Gengis Khan. Anche perché poi lui usa il suo protagonista Yerul Daeger come se fosse una metafora della Mongolia, cioè il tuo protagonista rappresenta il territorio in cui vive. Sì, quando parlo di Yerul Daeger parlo della Mongolia, e quando parlo della Mongolia parlo del personaggio, sì, chiaramente. E Yerul Daeger illustra questo problema di oggi della Mongolia. Nel primo libro Yerul Daeger è un nome che cerca di risolvere i problemi di oggi rispettando le tradizioni di ieri. E succede a risolvere i problemi di criminalità, però la tradizione non basta. E lui deve usare un modo un po' più violento, che non gli piace, anche se sono effettivo, non gli piace. E allora, al fine del primo libro, Yerul Daeger è un po' come la Mongolia, è arrabbiato di dover usare modo oltre che la tradizione. E nel secondo libro, tutto il libro non è più il personaggio centrale. Il personaggio centrale è Oyun, che è una ragazza giovane che lei cerca a partecipare all'evoluzione del mondo, che cerca a tirare la sua Mongolia dentro del mondo che si sviluppa. E Yehudah rimane un uomo arrabbiato di essere arrabbiato. Si è arrabbiato anche di più perché vede che non c'è neanche più la violenza, solo si dice l'arrabbiamento. La rabbia. È per questo che l'ho lasciato Yehudah al fine del secondo libro, che normalmente dovrebbe essere solo due libri. Ho lasciato Yehudah al secondo libro completamente perso. Ha perso i suoi amori, ha perso i suoi amici, ha perso il suo lavoro. E per questo che mi sono deciso dopo da scrivere il terzo libro, non per voi lettori, per lui, per il mio personaggio, per infatti, dare un po' anche quello dove, tipo di fine differente. Cioè, lui nel terzo, quando gli lo fa andare a letto con certe donne, è perché gli fa un regalo. Dopo tutto quello che gli ha fatto patire prima, la sofferenza, la morte della figlia, l'odio dell'altra figlia, che non gli perdona, che quasi... Però non donne come regalo, donne come... incontri con delle persone forti, perché tutti i miei personaggi e soprattutto i personaggi delle donne sono forti, perché sono il modo di mettere i personaggi maschili in fronte alle loro, come si dice, contraddizioni. E quando Yehudah nel terzo incontra quelle due donne, una vecchia e una giovane, non è così per un regalo per quello che ha fatto nelle due primi libri. È per costruire la sua fine. Che lui lo sa già cosa va a succedere. Lui sta cercando un modo di armonia completa con il suo paese, armonia fisica. Però per arrivare a questo devo confrontarsi con le sue contraddizioni, e solamente queste donne, anche le due prime, anche Solongo e Oyun, possono metterlo da fronte alle sue contraddizioni. Allora, tu hai deciso questa sera di fare un regalo alla donna della tua vita. Vedete che c'è una chitarra lì di fianco, no, l'abbiamo portata apposta. Perché? Quanti anni sono che hai promesso a tua moglie che tu avresti suonato e cantato per lei? No, molti. No, però questo lo faccio l'anno prossimo, perché ho fatto una... Hai visto che mi piacciono le sfide, però quando lo decido io, non quando lo decido io. Mi sono fatto una sfida, abbiamo fatto una bella festa per i nostri 50 anni, e dopo noi siamo questo, cosa possiamo fare per 55? E mi sono detto, potrebbe fare una cosa, imparare la chitarra, formare un gruppo di rock, prendere un teatro come questo, invitare tutti quelli che vogliono venire, e io tocco con il gruppo il rock, e l'unica presente che mi potrebbe fare per l'anniversario, se mi farmi un successo, anche se io rovino tutte le... Allora abbiamo cercato di farlo per i miei 55 anni, e ho trovato alcuni amici per cominciare a imparare la chitarra, e claro che a questo tempo stava anche il lavoro e tutto questo, e noi abbiamo fatto. Allora abbiamo fatto, lo facciamo per i 60, lo stesso. Per il 65 siamo quasi arrivati. E quando ho avuto 65, a questo periodo sono entrato nel mondo del giallo. E nel mondo del giallo tutti gli autori del giallo sono dei rock star, toccano tutti... Quindi ti tocca imparare. E allora l'ho detto a qualcuno, e qualcuno mi ha detto, mi occupo io. E lui ha formato il gruppo, ha già preso il teatro, gli ha scelto la data, e solamente che io devo imparare anche la chitarra. Quindi voi sappiate questo, che la prossima volta che lui torna qua, sì, non veniamo a parlare di libri, ma veniamo a suonare delle canzoni. La prossima volta io vengo col gruppo, faccio il consiglio. Senti, dentro ai tuoi libri tu non descrivi mai fisicamente il tuo eroe, parli solo delle sue mani. Sì. Perché? Come si dice in francese, io amo a pensare. Si dice? Anche mi piace pensare, immaginare. Sì, un po' di più che mi piace, j'aime penser. Mi piacerebbe essere sicuro che il successo di Yuri Elgar è una parte della storia, una parte della Mongolia e anche se sono 10% del mio modo di scrivere, perché a me mi piace scrivere, prima di tutto. E mi sono fatto ancora una volta un tipo di sfida di avere regole per scrivere. Invece di cominciare il libro dicendo questo personaggio principale è così, così, grande, grosso, io mi sono detto come regola non fare le descrizioni dei miei personaggi. Solamente una cosa, per il regalo sono i mani, per il Solongo sono i capelli, e basta. Perché è allo stesso tempo è una tecnica di scrittura che mi piace, un tipo di sfida di scrittura che mi piace, e dopo è anche un tipo di rispetto per i lettori che così se io lascio ognuno farsi la sua propria idea del personaggio invece di imponerlo a ognuno. Ci sono così delle cose, piccole sfide di scrittura che mi sono fatto nei libri. Lui è divertente come scrittore perché si pone ogni volta degli ostacoli, cioè lui scrive in pubblico e invece che risolversi i problemi si complica ogni volta la vita. Allora, uno poteva essere contento, fare una serie ambientata in Mongolia, si fermava lì. Allora, vi ha già detto che c'è una serie adesso ambientata negli Stati Uniti di cui è uscito il primo volume, ce n'è una ambientata in Amazzonia di cui è uscito Matto Grosso, ma ce ne sarà una pure ambientata in Islanda. Sì, è terminata, io l'ho dato all'editore prima di venire qua, 3 giorni fa. L'Islandia è terminata, un giallo sull'Islandia, sto scrivendo il secondo della trilogia americana e l'inizio della saga storica, perché sto scrivendo una saga storica sull'Armenia. 800-900 pagine sulla un secolo di una famiglia dal 1915 a 2015. Quanto è importante per te raccontare anche l'Armenia? È diventato importante perché io mi sono reso conto che scrivo molto sulle culture nomade. Los indios de Mato Grosso, la Mongolia, Islandia non sono nomadi, però hanno molto in comune con la Mongolia, delle cose anche quotidiane. E, l'idea è che io sono francese, chiaramente, ho fatto tutte le mie studi in Francia, sono francese, però sono di cultura armenia. E, lo che mi piace nella cultura armenia, per esempio, non sono mai andato in Armenia. Perché lo che mi piace di più è essere parte di una diaspora. È molto bello essere parte di una diaspora. A una epoca, quando non c'era il Stato dell'Armenia, c'era il Stato sovietico, perché non era riconosciuto, gli armeni avevano delle elezioni. Facevamo delle elezioni ogni anno per eleggere i deputati e che non c'era un territorio. Però se votava per il Dashnaksutyun, l'Inishnaksutyun, dos partitos armenios, non so a che servivano questi deputati, però mi piaceva l'idea di una comunità culturale, anche storica, senza territorio. Mi piace molto. È un po', come si dice, ideale, idealistico, però mi piace l'idea che la diaspora è molto vicino al spirito nomado. Siamo nomado intellettuale. E tra l'altro c'è un modo di raccontare armeno che secondo me si è sviluppato sia nella letteratura che nel cinema che nella musica. Vi faccio 2 esempi. Io sono un grande appassionato di musica rock, ma se io ascolto Aznavour, che racconta l'Armenia, e ascolto i System of a Down, che sono un gruppo metal che canta in armeno, c'è un'unione tra questi due mondi, che sono il passato e il presente. Si capisce perché, sono, come l'ho detto, è uno spirito nomade, e la cultura nomada è una cultura orale, poco scritta. E allora c'è quello modo di trasmettere le cose per il racconto. Questa tradizione orale non si perde. Oggi nei nostri paesi occidentali si è un po' perso questa tradizione orale e oggi si perde anche la trasmissione scritta. Si legge, si vende meno libri oggi, c'è più una cultura audiovisuale. E solo per questo è una tradizione nomada, diaspora o nomada, è per questo. E veramente tutti i giovani, quello che fanno il rap, la techno, tutti in Francia sono matti di Aznavour. Perché ogni canzone di Aznavour racconta una storia completa e completamente differente. E questo è un'arte che Aznavour, che tiene Aznavour da solo. È la tradizione di una trasmissione orale. Quando è dentro della diaspora armena, per esempio, quando tu vai, io non parlo l'armeno, in tutti i miei viaggi mi sono fatto rubare una cosa solamente, la tecnica assimil per apprendere l'armeno, è l'unica cosa che mi avevo rubato. Però tu vai in Argentina, tu vai in Libano, tu vai in Africa, incontri un armeno, comincia a raccontarsi le cose armene, è la tradizione orale. Ed è tra l'altro una tradizione che è molto simile a quella dei mongoli, no? Che per anni si sono raccontati le storie. Nel tuo libro la cosa che emerge è che i mongoli continuano a mantenere le tradizioni perché se le sono raccontate e non c'è la voglia di interrompere questo rapporto con il passato in nessun modo. Ma queste storie mongole di che cosa parlano soprattutto? Quali sono gli elementi più raccontati? Soprattutto è il posto dell'uomo non dell'uomo, dei umani nel mondo e l'armonia con il resto del mondo. Resumo facilmente, cioè la nostra vista dell'universo, diciamo, è che se l'universo è un circolo, per noi occidentali siamo il centro, tutto si definisce dal centro. La tradizione sciamanica è lo stesso circolo, l'unica differenza è che il punto umano è un punto del circolo. E allora il fondo della loro tradizione orale è l'unico punto, è definirsi in referenza al circolo delle cose viventi nel mondo, neanche vivente, anche i minerali, anche la steppa, il cielo, il vento, è l'unica differenza. È per questo che ho parlato un po' più tutta l'ora. Insomma, più dettagliatamente. delle concordanze con l'Islandia. Islandese, popolazione moderna, completamente implicato nel mondo moderno, completamente. Gli islandesi sono, non so se lo sai, tutto il negozio dei bitcoins, di bitcoin. Le monete fasulle, immaginarie. Si fa in Islandia, perché ogni transazione in bitcoin si usa un algoritmo che rimane tutta la sua vita della transazione. Allora il Bitcoin necessita delle miliardi di computer che consuma miliardi di energia. Da meno di 5 anni gli islandesi si sono resi conto che tutta l'energia l'hanno loro con la geotermia gratuita. Il negozio di Bitcoin, il computer, ha bisogno di due cose: energia e raffreddamento. Il raffreddamento del computer. E l'Islandia ha il ghiaccio da una parte e i vulcani dall'altra. Oggi quasi tutte le negoziazioni di Bitcoin si fanno attraverso si dice delle ferme, un ferme, come le ferme per gli animali, ferme di Bitcoin. Una fattoria praticamente. Sì, sì, Bitcoin. Per dire che l'Islandia è nel modernismo, però 70% delle persone in Islandia credono alla vita del mondo invisibile nelle rocce. E ci sono delle strade in Islandia che fanno il ritorno per non spostare un rock dove si pensa che potrebbe vivere un tipo di vita invisibile. Questo è molto in raccordo con quello che pensano i nomadi di Mongolia. Perché ogni cosa deve restare al suo posto, sì. Non va spostata, perché sennò rompi l'equilibrio. Sì. Per esempio, in Mongolia è la differenza tra una pista e una strada. La pista è un modo di viaggiare che è fatto dall'esperienza di migliaia di persone che durante un secolo hanno passato così, su questo paraire, da questo punto a questo punto. Questo vuol dire che ognuno che ha fatto questa pista ha visto i rocchi, il fiume, ha passato questo ponte qua, hanno la coscienza del viaggio. La strada è altra cosa, la strada è una cosa decisa ai 1000 chilometri fuori di qualcuno su un piano che ha detto per andare di qua a qua facciamo qua. È la differenza. E a che serve la differenza? È che questa pista, questa strada che oggi porta il minerale dal miniere al posto dove è usato, che sono 500-600 chilometri, attraversa dei posti che sono fatti per essere attraversati. E come sono trasportati in camioni aperti, il polvo, la polvere si dispersa e di ogni parte di questa strada la steppa è morta con la polvere delle miniere. Però perché gli anziani avevano due tipi di pista: la pista per gli umani e la pista per i materiali, che non erano gli stessi. E questa è la differenza, è che oggi si fa le cose senza pensare alla terra. La terra non è una cosa che è una cosa morta. È quello che ho detto ieri all'incontro, è che la differenza, per esempio, è fra l'Occidente e la Mongolia, che noi qui pensiamo che la steppa è di nessuno. Si può capire, perché non hai proprietà sulla steppa. Però loro pensano in un altro modo. La steppa è di tutti. E la differenza è capitale. Perché se la steppa è di nessuno, tu puoi lasciare un posto nell'estate che vuoi e andarti. Se la steppa è di tutti, tu non puoi lasciare questo posto senza pensare che il prossimo che va a venire deve poter sopravvivere. Sopravvivere. Ecco. E questa è la differenza. La differenza tra questi paesi, questo pensamento sciamanico, il nostro modo occidentale di pensare, non è una grande differenza. Si fa su piccole cose, però sono delle piccole cose che dopo sono come le false parallele. Si sembra una piccola differenza, però dopo poi si separano. Dopo 100 anni la differenza di mezzo grado fa una differenza di 100 chilometri. Allora io vorrei che faceste un bel applauso a Jan Manuk. Grazie. Se non siete timidi, potreste anche fargli qualche domanda, visto che c'è anche la possibilità di farle, però io so che di solito quando lo si dice comincia a saltare fuori il gelo da quella parte, per cui allora, per curiosità, quanti hanno già letto almeno un libro di Manuk? Ah, vedi che c'è una platea che ti ha già letto. Volete raccontarci che cosa vi ha colpito della sua letteratura? Silenzio, borbottii. Cioè in realtà stanno pensando. Sì, se non hai domanda lo faccio io le domande, eh. No, se no te ne faccio una io di chiusura, perché secondo me loro stanno già pensando alla carne di marmotta. Sì, sì. Cioè, sono già lì che pensano. Quanto è importante montare una tenda nella steppa? E perché la steppa ha dei, cioè la tenda ha dei luoghi così precisi e delimitati al suo interno che sono dedicati a persone diverse? Perché uno si immagina una tenda dove si sta tutti nello stesso posto, invece non è così. No, no. Ancora una volta è una tecnica di sopravvivenza in un ambiente ostile. Quando tu abita con tutta la tua famiglia in una tenda di 6 metri di diametro, hai che organizzarla. E il migliore modo di organizzarla è di chiedere alla tradizione di farlo, e per ripartire. Si dice per esempio che la parte per gli ospiti è la parte sinistra, non la prima parte sinistra, la parte sinistra un po' qui, perché è vicino dall'hotel degli spiriti di anziani. Perché si dice così? Che se tu entra in una yurta e che tu sei ospiti, ti va di questa parte. È perché è in 6 metri di diametro. Tu non puoi entrare così nell'intimità di una famiglia, è per questo che alla destra sono la parte delle donne e della famiglia, alla sinistra sono uomini, ospiti, anziani. E se tu devi a ogni yurt dire queste regole, ripetere queste regole, allora ognuno potrebbe organizzarsi in un modo differente. Quando ti dice che la tradizione è questo, per la tradizione ha una ragione, la ragione è organizzare un luogo di vita è molto piccolo. È un circolo di 6 metri di diametro per una famiglia di 5 o 6 persone, per dormire, per mangiare, per amarsi, per fare l'amore, per lavorare, allora hai che organizzarlo, anche per gli oggetti. Sì, quello che serve a fare fanno gli uomini è qua, per la cucina è qua, però per fare il latte di cavalli è qua. È normale, per un piccolo posto così hai che organizzarlo, e il migliore modo è, perché quando si pensa 50 anni fa nelle farme in Europa era quasi lo stesso, certo, le quando tu entrava c'era una disposizione quasi identica per tutti. Anche perché poi c'era la distribuzione del calore, per dire, sì. Il fuoco deve essere in un certo punto per poter riscaldare, per poter permettere di cucinare. Il fuoco è centrale perché è sacrato, è che il fuoco, la yurta rappresenta il mondo femminile, è rotondo, rotondo. E c'è quello cilindro sacrato, che il fuoco, la terra, e l'apertura nella yurt e in relazione con il cielo. E questo non si attraversa mai, si va sempre intorno. È un po' il simbolo del rispetto di nomadi alle cose essenziali, la terra, il fuoco e l'aereo. È per questo che, ancora una volta, è il modo per la tradizione di imporre il rispetto alla terra. Allora, intanto io vi chiedo un altro applauso a Ian. Fabrizio sta salendo sul palco. Ovviamente vi ricordo di prendere i libri per poi portarveli di là per farli autografare, giusto Fabrizio? Esatto. Bene, io voglio ringraziare Luca Crovi e Ian Manu per questo interessantissimo momento, questo incontro. Grazie a tutti e arrivederci a domani per chi c'è. Io vorrei dire una cosa, che l'idea di viaggiare in Mongolia è una buona idea, perché viaggiare in Mongolia è un viaggio molto facile, non ha nessuna difficoltà viaggiare in Mongolia, lo può fare con bambini, con anziani, è un viaggio meraviglioso che rimane l'esperito per la vita completa, è molto facile da fare, non è un viaggio complicato, è solamente un po' caro perché è lontano con l'aereo, però anche è un paese molto organizzato per un tipo di turismo autentico. Grazie per questa aggiunta, grazie mille.